Bene, ritornati in diretta, altri suoni, 451 frammenti sonori. Ringraziamo ancora la splendida figura e oltre che figura anche voce di Gino. La calda voce di Gino che mancava da tanti anni da questi microfoni. Sì, che poi insomma speriamo insomma di portarlo come un appuntamento quasi fisso. Perlomeno che ne so, 3-4 volte all'anno non sarebbe male. Beh, sarebbe una buona cosa. Anche perché ci porta delle chicchine, come avete visto, che ha solo lui, in quanto appunto pesca dalle novità che gli mandano direttamente come giornalista, per cui è sicuramente un guadagno anche per la radio. Tu, Jerry, sarai con noi ancora un po' di minuti. Sì, io sono quasi alla frutta. Comunque ne tengo ancora botta, anche perché ci sono ancora un paio di cose che mi interessano. Una che personalmente io ammetto di aver conosciuto solo da pochissimo, invece poi scopro grazie anche alle vostre ottime note, che è sulla scena dal 1997, questo sì, Kevin Drum. Prima come strumentista. Appunto, per cui io sono un neofita, è un personaggio che mi ha intrigato per questi suoi drone chitarristici assolutamente monolitici, ma meno, più caldi direi rispetto a quelli di Lamonte. Mi sembra più, beh, almeno quello che ho sentito adesso degli ultimi due, questi ultimi due lavori, Imperial Distortion e Imperial Horizon. Beh, lui la faccenda anche di avere filtrato, come dire, certo post rock e certo rock, anche certo noise, sicuramente lo porta a essere decisamente caldo. Sì, più caldo. Dunque si tratta sempre di droni molto metallici, a volte anche, o comunque abbastanza monocordi, ma con quel qualcosa in più che me lo fa amare di più, per esempio, rispetto anche al vecchio Lamonte, che rispetto perché è quello che ha iniziato, ma mi ha sempre lasciato un po' freddo personalmente. Insomma, potrei fare, visto che non si può parlare direttamente, un po' come Marx e Lenin, insomma. Se Lamonte e Marx, che Kevin e Lenin, la mettiamo potrebbe, così. Potrebbe. E possiamo anche parlarne, perché comunque, no? Dato il silenzio, Marx e Lenin, insomma, dai, è passato. Parlare, va bene, niente, allora ascoltiamo questo estratto da Imperial Distortion, che è quello che è uscito prima dei due, se non sbaglio l'ultimo dovrebbe essere Imperial Horizon. Sì, un altro capolavoro, tra l'altro. Che è tra l'altro un brano unico, qui invece c'è comunque la parvenza di una sequenza di brani. Ascoltiamo il brano che chiude proprio il lavoro, che si chiama We All Get in the End, appunto, degna chiusura di questo lavoro. Thank you. Benissimo, siamo rientrati in diretta e abbiamo ascoltato questo splendido lavoro, purtroppo tra virgolette tranciato, dato che comunque il grande dramma, Kevin Dramma, avrebbe bisogno sicuramente per essere apprezzato appieno di ascoltarlo completamente, ma stasera purtroppo abbiamo dovuto limitare il minutaggio di molti progetti, anche di altri progetti che probabilmente non riusciranno a inserirsi nel cantiere di stasera, ma va bene così. E abbiamo in sottofondo, che si collegherà con l'ottimo lavoro di Kevin Dramma, una formazione non particolarmente conosciuta, formazione progetto inglese britannico Monos, dall'album Landscapes del 2004, un lavoro molto interessante dove l'aspetto dronico è connesso ovviamente sia a una con una, diciamo, una natura psichedelica ma anche ipnotica, e soprattutto un collegamento, anche un certo, una certa musica acustica, elettroacustica mixata e dialettizzata con l'elemento elettronico. Ce l'andiamo dunque a ascoltare, scusate, anche se in una piccola parte, Monos, Landscapes. Bene, io vi saluto con questo ultimo mia proposizione per questa serata speciale qui da Città del Capo Metropolitana, con questa serata di droni a tutto andare di tutti i tipi, con qualcosa di più dolce rispetto alle ultime uscite che abbiamo ascoltato adesso, di un nuovo compositore che gira nell'ambient dronica più dolce. Io la chiamerei quasi la floating, vogliamo fare un neologismo, floating ambient. Sta bene. Dopo la dark ambient, per levitare un po' così, sì. Con leggerezza in queste atmosfere molto dolci, mi verrebbe da dire quasi new age, ma non vorrei tirar fuori qualcosa che poi può dar fastidio. Abbiamo sfiorato il discorso, magari poi possiamo anche fare un po' di riflessioni a tre voci su questo, perché comunque sembra, anche Gino prima lo diceva, c'è un ritorno, che è un ritorno, vediamo un po' che cosa succede, perché sappiamo quanto è pericoloso, però soprattutto insomma in termini di sociali, lo mettiamo così, visto che stasera non si parla di politica, mettiamo sul termine sociale della categoria, per quello che ha rappresentato il New Age. Poi in termini sonori magari può essere anche molto interessante la faccenda. Sì, dipende sempre, perché nella New Age è stato messo un po' di tutto, ultimamente viene visto più come termine negativo che altro. Però storicamente, anche nel periodo di 10-15 anni fa, c'erano comunque delle cose valide che erano poi state etichettate come New Age, per cui tutto sommato stiamo a vedere quello che viene fuori. Questo non mi sembra che possa essere ancora definito New Age, questo Lauren Dent, così come un altro giovane compositore che sta emergendo adesso, che si chiama Kyle Bobby Dunn, queste atmosfere più dolci, languide, appunto per galleggiare nell'atmosfera, che comunque richiedono sempre questo ascolto, che può essere visto in due modi: o proprio messo lì sottofondo, poi fate le vostre cose, oppure vi mettete lì con le cuffie e poi fate il vostro viaggio, seguite il vostro flusso di pensieri e vi lasciate cullare da queste dolci note. Così questo Anthropology volume 1, che presuppone un seguito e comunque è un primo assaggio di queste sue proposte, ascoltiamo questo Lauren Dent, proprio il brano che chiude questo Anthropology volume 1. Ti salutiamo, Jerry, grazie. Allora, Jerry, sei stato grazie già dell'accoglienza, e comunque spero che reciproca, ovviamente, reciproca. Sei stato anche bello tosto a reggere un orario, noi siamo abituati, no? Dunque siamo nottambuli. Non usuale per me. Sì, bravo, bene. E comunque sì, magari rifaremo qualcosa, spero anche a breve. Certo. Con Gino o senza Gino. Sì, ci mettiamo d'accordo. Magari appunto facciamo questa riflessione su questo ritorno. Infatti. Bene, allora buon ascolto e buonanotte con Lauren Dent, e buon proseguimento di trasmissione. Abbiamo ascoltato Makoto Kawabata insieme a Richard Youngs e poi abbiamo dedicato con anche un reframe che in maniera diabolica quasi si ripeteva di Terry Riley. È una citazione, dai. Sì, beh, una citazione. Un lavoro che veniva fatto sui nastri nella metà degli anni 60 da Terry Riley. Noi l'abbiamo fatto in una maniera molto più spartana, diabolica, forse casuale, chissà, qua appunto a 451 e altri suoni in compagnia appunto anche di Gino Dal Soler. Siamo rimasti soli soletti, nottambulini. E appunto, come non citare probabilmente uno dei grandi padri insieme alla Monte Young, forse se abbiamo detto per quanto riguarda la Monte che sicuramente ha ridato quel grande slancio di drone e lisergicità varie dentro le neoavanguardie, le neoricerche degli anni 90 e anni 0, sicuramente di ambito più di ricerca, più diciamo colta ancora, se può avere ancora senso questo termine. Con Terry Riley si va forse anche a toccare quello che è stato probabilmente il papà effettivo di buona parte della psichedelia, non soltanto per un fatto di suono, ma soprattutto per un'attitudine che nella Monte si è anche dimostrata nel suo essere così distante anche in termini discografici, da non essere mai contento a tal punto da non pubblicare quasi mai niente, insomma, se non le cose della Shandar, poi vabbè, i bootleg comunque in questi anni, per fortuna a questo punto diciamo, sono girati. Invece Terry Riley già alla fine degli anni 60 era ascoltato dalle gioventù psichedeliche americane, non solo, ascoltato quanto e forse anche di più di ad esempio di Karlheinz Stockhausen, altra figura chiave per i giovani della fine degli anni 60, per proprio la costituzione di quella che era la cultura alternativa di quel fine decennio storico. E con Terry Riley quindi si è dato veramente una sorta di lascito poi preso da generazioni di psichedelici, e Keyboard Studies del 65 sono state proprio fondamentali proprio per questi giovani alternativi o antagonisti che appunto sperimentavano le lunghe suite psichedeliche, soprattutto avendo come riferimento l'attitudine anche molto libera e anche semplice rispetto anche a quella della Monte, o rispetto anche a quella complicatissima di Steve Reich e matematica anche del primissimo, e primissimo sottolineiamo, Philip Glass. E quindi omaggiando Riley, visto che questa sera ci tocca, caro fratello, memoria storica, è un paradosso, visto che lo potevamo fare in maniera sicuramente migliore della nostra, visto che hanno un bagaglio più addentro, no? In termini di esperienza è buon Gino, il buon Jerry, che invece si sono dedicate alle novità, al nuovo, e noi invece ci siamo dedicati al vecchio, ma forse anche nuovo, perché rimarrà sempre nuovo, no? I papà, i capistipiti di tutta una serie di sperimentazioni droniche, psicadeliche, ipnotiche, minimaliste. Sotto sentiamo un vero e proprio capolavoro di Terry Riley, che appunto abbiamo voluto omaggiare e tributare, e adesso tributiamo anche ovviamente con un piccolo assaggio un altro grande compositore dronico che appunto è stato catalogato all'interno del fenomeno minimalista, ma che in realtà poi si è espanso e si è spostato e ha sperimentato in vari lidi. Parliamo di David Berman, in un disco spettacolare dal punto di vista sonoro realizzato nel 1977 al centro della musica contemporanea Mills College Oakland, un lavoro splendido, On the Other Ocean. Andiamo proprio a ascoltare un piccolo frammento, appunto per tributare anche il grande David Berman, da On the Other Ocean, con la presenza, questo importante, al flauto di Maggie Payne e al bassone di Arthur Stickwall, oltre che l'ingegnere del suono, che è importantissimo in questo brano perché è praticamente tutto suono, il grande Gene Tierney. Ce l'andiamo a ascoltare un piccolo frammentino e poi apriremo un universo anche abbastanza curioso e per certi versi spostante, stasera, sempre nell'ambito dronico, ma ci siamo voluti dare o mantrico, forse più adatto, più mantrico, dai. Thank you. Thank you. Benissimo, siamo rientrati in diretta, abbiamo voluto fare una piccola provocazione sonora, ma sicuramente anche un omaggio a un grande compositore che per certi versi ha affrontato la materia dronica e, come diceva, anche puntualizzando meglio il buon Max, un forse più mantrica che dronica, e parliamo del grande Miles Davis, da un disco capolavoro In the Silent Way che amiamo entrambe in maniera piuttosto elevata, che oltretutto a livello armonico stava perfettamente con quell'accordo, quel suono e quella frequenza che stava in un certo momento appesa per qualche secondo di David Berman. E abbiamo appunto infilato il passaggio, questo giro armonico splendido e assolutamente unico del Rhodes in the Silent Way, e a questo punto abbiamo fatto questa virata nell'ambito della black music e del jazz, di un jazz estremamente aperto, psicadelico e dronico, e dentro questo contesto che abbiamo voluto spostare ci sta altrettanto bene un altro grande personaggio della black music che noi amiamo particolarmente. Sì, farà Sanders, che tra l'altro ha anche messo qualche settimana fa qua, sì, dentro 451 per l'afrofuturismo. Beh, come dire, se qualcuno magari è rimasto un po' sconvolto dal cambio, non lo riteniamo, come dire, un peccato, però la riteniamo probabilmente una cosa che, a parte che ci piace molto perché l'abbiamo fatto volontariamente, e tra l'altro la riteniamo uno di quei passaggi fondamentali dentro la storia della musica dronica, psichedelica, mantrica del Novecento. C'è quel passaggio che c'è tra psichedelie e voglia di cosmo, ricordiamo ad esempio uno Stockhausen innamorato del cosmo a un certo punto della sua carriera, e dal suo alto dei suoi studi, eccetera eccetera, e invece un basso che ancora tale era, ma poi appunto si romperà definitivamente questa divergenza e questo steccato finalmente attraverso le avanguardie, attraverso anche chi lavorava appunto anche in maniera quasi inconsapevole in termini strettamente di cultura accademica, musicale, anche quindi sperimentale in un certo qual senso, e quindi tutta la generazione psichedelica e anche quella generazione di jazzisti che stava fondando appunto la testa, il corpo, la mente completamente dentro questo suono lisergico, questa grandissima utopia sonora, e che stava trasformando completamente la musica, le stesse psichedelie, lo stesso jazz e la stessa avanguardia, tant'è che appunto siamo arrivati ai nostri giorni, dove si sentono echi dentro i droni di Coltrane, ad esempio, che potrebbe essere un trade union tra Miles Davis e Pharoah Sanders, che appunto tra poco sentiremo e chiuderà anche questa nottata di drone psichedelici, e che porta appunto una serie di echi, di rimandi, di giochi di specchi dentro tutti i droni probabilmente ascoltati questa sera, perlomeno nella parte più nuova, più appunto legata alle ultime uscite droniche e psichedeliche. Quindi veramente riteniamo, come dire, un passaggio fondamentale questo, e quindi una possibilità che ci siamo dati dentro questa nottata dedicata appunto al drone sonoro, che va a chiudersi con appunto Jewels of Togg di Pharoah Sanders 1969, viaggio appunto dentro le cosmicità, le fluidità, l'avanguardia e tutto quello che veramente volete, un mondo che si apre a tutto, forse anche a quello che per un periodo è stato considerato world music e poi si è un po' perso, quindi John Hassell eccetera eccetera. Salutiamo da qui, sì, ovviamente ricordiamo ancora questa puntata speciale di 451 sonori e altri suoni, che è iniziata alle 22:30 circa con la presenza speciale di un ospite assolutamente ben gradito, cioè Gino Dal Soler, e chiudiamo appunto stasera questa puntata speciale e ovviamente vi ricordiamo che la prossima settimana noi non saremo in onda essendo Pasqua. Jerry sì. Jerry invece sarà presente, dunque lo diciamo, dunque lui e altri suoni saranno presenti con la loro diretta, mentre noi ritorneremo la domenica successiva, e dunque la domenica 11 aprile, per la trasmissione 451 Frammenti Sonori. Ovviamente buonanotte da Max Macchia e Eliseo Scarpa. Ciao. you hear our plea and ring your bells of peace. Let nothing never cease. Ooh, la la la la la la la la la la la. Peace, won't you hear our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease. Prince of peace, won't you hear our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease. Umallah, hey, hey, umallah, hey, hey, umallah, hey, hey, umallah, umallah, hey, hey. Allah, eh, eh, Allah, eh, eh, eh, Allah. Prince of Peace, won't you hear our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease. Prince of Peace, won't you hear our plea? Ring your bells of peace, let loving never cease.